All'articolo 597 il codice di diritto canonico stabilisce che in un istituto di vita consacrata può essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che possieda le qualità richieste dal diritto universale da quello proprio e non sia vincolato da impedimento alcuno. E specifica detto articolo altresì che nessuno può essere ammesso senza adeguata preparazione. Due articoli dei patti lateranensi firmati nel 29 stabilivano che la città del Vaticano era da considerarsi sempre e in ogni caso territorio neutrale e inviolabile. In grazia di ciò, come racconta Enzo Forcella nella Resistenza in convento, un buon libretto uscito l'anno scorso da Einaudi, furono parecchi coloro che dopo l'8 settembre del 43, durante l'occupazione tedesca di Roma, chiesero ed ottennero asilo nei possedimenti vaticani. Il mattino del 12 settembre, tra i due estremi del colonnato berniniano di Piazza San Pietro, appare una striscia bianca fatta con il gesso che materialmente questa striscia divideva la città cosiddetta aperta dalla giurisdizione pontificia. E qualche settimana più tardi, all'ingresso delle basiliche romane, venne affisso un cartello bilingue, sia in italiano che in tedesco, su cui stava scritto: questo edificio serve a scopi religiosi ed è alle dipendenze dello Stato della Città del Vaticano. Sono interdette qualsiasi perquisizione e requisizione. Avendo cura di distribuirli logisticamente in base alle categorie sociali e alle affinità politiche, le autorità religiose non lesinarono l'ospitalità a pezzi grossi dello sfasciato regime, come il ministro degli interni Ricci, il ministro dell'educazione nazionale Severi o numerosi generali, ammiragli, ufficiali di stato maggiore. Non lesinare l'ospitalità a docenti universitari come Federico Enriquez o a Nicola Pende, e neppure a intellettuali di sinistra di cui si sentirà parlare a lungo più tardi, come Gian Giacomo Feltrinelli e Raniero Panzieri. Si assoggettarono di buon grado alla vita monastica anche il presidente del Comitato Nazionale di Liberazione, Ivanhoe Bonomi, il leader democristiano Alcide De Gasperi, i socialisti Pietro Nenni e Giuseppe Saragat e molti altri che sarebbe troppo lungo ricordare. Non mancò neppure chi, come Aldo Fabrizi, che peraltro in quei giorni continuava tranquillamente a recitare nei teatri romani, chiese ospitalità al Vaticano per la propria cavalla. Se la sono cavata quasi tutti. Alcuni travestendosi da prete, ma se la sono cavata. Quasi tutti. Chi ci ha rimesso le penne è chi non ha fatto in tempo a superare la soglia di una basilica, come il povero Bruno Buozzi, sindacalista socialista che fu arrestato esattamente la sera prima del suo progettato trasferimento in convento e poi trucidato dai nazisti. Oggi pochi si accorgono di quanto ci sarebbe bisogno di una nuova resistenza contro la violenza dell'ideologia mercantile e nessuno va più in convento a preservarsi per un governo che verrà, nessuno o quasi. Perché in settimana, dopo aver messo in pratica il precetto paolino che dice che la virtù si perfeziona nella debolezza, ha chiesto ospitalità in un convento, ottenendola a questa ospitalità, la signorina Luana Borgia, l'indimenticabile interprete di Luana la Porcona, di Le doppie bocche di Luana e di Fra le gambe di Luana, tutti i film, come si evince facilmente dai titoli, dove il biologico e il fisiologico costituiscono primaria fonte di ispirazione. La Borgia, un cognome che si è scelto grazie alla propria cultura storica, aveva già dato segni di confidenza con la mistica 3 o 4 anni or sono, percorrendo con un frate il cammino dell'ascesi nelle curve degli stadi, diffondendo l'ardua idea della fratellanza tra tifosi. Da come la ricordo, peraltro, la sua stessa mise de scène, con qualche cinghia borchiata, uno staffile e poco più, non è mai stata del tutto estranea al necessaire del penitenziale. Tuttavia, dubitando che l'attività della signorina Borgia possa di per sé costituire quell'essenziale preparazione adeguata imposta dal codice di diritto canonico per poter adire le vie conventuali, l'evento mi induce ad amare riflessioni sulla decadenza del pubblico peccatore, figura storica che come certi mestieri del passato, certe specie animali, rischia di scomparire. Sembra lontanissimo allora quell'agosto del 57, quando l'Osservatore Romano invocava provvedimenti contro le donne che si aggirano per la città in pantaloncini corti e quando prontamente e obbedientemente la questura fermava le turiste. Sembra lontanissimo quel triste gennaio del 1960, quando infuriarono le polemiche contro un sacerdote reo di aver amministrato l'estrema unzione a Fausto Coppi, pubblico peccatore notorio e pofferbacco, amato dal popolo almeno quanto le turiste in pantaloncini corti. Vittima collaterale del relativismo imperante, dopo le teorie scientifiche, è il peccato, cui oggi viene concessa una sorta di invisibilità sociale, nonché una metaforica extraterritorialità rispetto a qualsivoglia comportamento. E così, se un tempo se la potevano cavare gerarchi fascisti e torturatori nazisti insieme ai probabili padroni di domani, da un po' di tempo in qua le porte dei conventi si chiudono benevolmente alle spalle di pedofili assassini, di mafiosi, di politici corrotti, tutta gente di fronte alla quale, a onor del vero e alla faccia del suo nome, la signorina Borgia fa la figura della compita educanda. Il non plus ultra, il non plus ultra della conventualità, d'altronde era costituito dalla clausura. Detta usanza risale almeno al IV secolo, visto che si ha documentazione di alcuni canoni nei quali è interdetto agli stessi vescovi il porpiede nei chiostri delle vergini sacre senza necessità e senza l'accompagnamento di ecclesiastici per età e costume venerandi. Ma correlativamente alla decadenza del pubblico peccatore, va da sé che si perda qualcosa anche del privato virtuoso. Ed è in questa chiave che va intesa, credo, la recentissima apertura del sito internet da parte delle suore di clausura di San Salvatore a Grandate, poco distante, peraltro, guarda caso, Grandate, da quel Perledo che è la terra natia della suddetta Luana Borgia. Che internet modifichi il concetto di clausura perpetua e ne infici le ragioni costitutive a me sembra fin ovvio, ma so bene quanto ogni definizione empiristica protegga pochissimo chi incautamente gli si affida, e dunque sono pronto ad ascoltare le giustificazioni altrui. Non le ascolterebbe, fosse Dio non voglia redivivo, Martino Lutero, che a proposito di conventi, a quanto appare dagli appunti presi dai suoi allievi durante le cene, a proposito di conventi aveva le idee chiarissime: che si chiudessero tutti a causa delle dannose polluzioni notturne, che si distruggessero per vincere l'ozio e la pigrizia, la lussuria, la crapula e la sporcizia. All'articolo 599 il codice di diritto canonico di oggi parla di perfetta continenza nel celibato, e Lutero, che ieri né andava per il sottile né indulgeva al relativismo, sapeva riconoscere benissimo sia il pubblico che il privato peccatore.